mostra importante, quella selezionata per la rubrica del giovedì. Siamo a Padova, l'esposizione sarà fino al 21 gennaio 2023, un'occasione anche per ammirare la splendida città patavina. Al Centro Culturale Altinate, a San Gaetano, Padova, appunto, American Beauty. American Beauty a me sull'immediato ha ricordato una pellicola, tra l'altro molto bella, un film che vidi con Kevin Spacey, ed è stato, per così dire, un'immediata attinenza con la mostra oggi protagonista, ma è semplicemente così, soprattutto per il nome, per il titolo. Certo, gli spunti di riflessione ci sono, ne parleremo con il curatore Daniel Buso. Allora, quando parliamo di arte negli Stati Uniti d'America, la prima cosa ovviamente è quella netta dicotomia che c'è stata dall'Ottocento fino ad arrivare ai giorni nostri, con quel segmento che va da Robert Capa alla street art, che sono i segmenti appunto di cui parleremo, e di un aspetto così esteso in un subcontinente. Gli Stati Uniti d'America lo possiamo definire un subcontinente, quanto anche ha influito con quella che è stata una partenza importante con lo sbarco in Normandia per quanto riguarda l'Europa, ed è un passaggio storico, artistico, una cesura che troviamo per portare, dico una città ma tante ne potrei citare, New York, con un'importanza per quanto riguarda l'arte assolutamente molto incisiva. Questo taglio, che poi a sua volta ha comunque dei percorsi, se vogliamo, oltre che da analizzare, si tratta sempre di uno stacco, ma che porta magari qualcosa che ci ricollega fino al periodo che vi ho descritto negli Stati Uniti d'America, un'arte derivativa dall'Europa, e poi quello che appunto si trova in American Beauty a Padova e quello che successivamente sarà. L'eterogeneità dell'esposizione è importante tanto quanto l'eterogeneità delle emozioni, delle sensazioni, per meglio dire, territoriali. Immaginiamo la East Coast, con città dove Boston, Philadelphia, la Pennsylvania hanno una sorta di contatto con l'Europa attraverso quella che è non solo una vicinanza ma un'importanza culturale, la parte del Midwest, la stessa Pacific Coast, che hanno una importanza altrettanto incisiva ma che ha correnti e vite artistiche completamente diverse. Ecco, le immagini, i passaggi di questo segmento in American Beauty vengono riportate con opere d'arte, fotografie, installazioni, video, che daranno un percorso oltre che ricco, quanto mai insomma da analizzare, che porta riflessione e anche musica. Allora, a me è venuto in mente, va da sé subito, ma è molto immediato questo riferimento, è venuto in mente Bruce Springsteen, che ho voluto portare con quello che per me il suo disco più bello, è Nebraska, il disco che appunto è uscito qualche decennio fa. Nebraska è un disco minimale, è un disco molto da micro sensazione, è un disco che può rappresentare benissimo la mostra che andiamo a presentare, grazie alla voce di Daniel Buso, che ha portato ai microfoni di Radio Città Fujiko, curatore dell'esposizione, un percorso, chiamiamolo radiofonico, per rappresentare l'American Beauty. Questo è un disco molto particolare, non è certamente il suo più famoso, ma secondo me è quello dal punto di vista emotivo veramente molto intenso. Vi propongo il brano Atlantic City e poi entriamo in mostra. A tra poco. Now there's trouble bustling in from out of state, and the DA can't get no relief. Gonna be a rumble out on the promenade, and the gambling commission's hanging on by the skin of its teeth. Well, now everything dies, baby, that's a fact. Maybe everything that dies someday comes back. Put your makeup on, fix your hair pretty, and meet me tonight in Atlantic City. So I drew what I had from the Central Trust, and I bought us two tickets on that Coast City bus. Now, baby, everything dies, maybe that's a bet. But maybe everything that dies someday comes back. Put your makeup on, put your hair up pretty, and meet me tonight in Atlantic City. It's getting cold, and maybe everything dies, baby, that's a fact. But maybe everything that dies someday comes back. Io direi di iniziare questa conversazione ricordando una pellicola di qualche anno fa che portava il titolo American Beauty. In questo caso siamo a Padova, abbiamo il curatore di un'esposizione che porta questo titolo, American Beauty. Diamo il buongiorno a Daniel Buso qua con noi. Buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno. American Beauty è un'esposizione che ha come estremi di un segmento, almeno dalla presentazione, da Kappa a Banksy. Ci può dire qualcosa di più a proposito di questi percorsi? Sì, allora la mostra appunto è un percorso molto ampio che accoglie 120 artisti internazionali. Noi abbiamo creato questi termini, da Robert Capa a Banksy, perché sono i termini anche contenutistici a livello concettuale dell'esposizione, cioè la mostra traccia un po' quelle che sono le caratteristiche dell'influenza che gli Stati Uniti hanno avuto a livello politico e culturale nel mondo, per cui Robert Capa, in quanto rappresenta lo sbarco in Normandia, che è risaputo essere la prima operazione, se vogliamo, politico-militare che porta gli Stati Uniti a dominare, tra virgolette, il mondo, e Banksy invece come ultimo artista della street art che ci porta nelle strade americane e quindi che ci mostra diciamo così, il dietro le quinte delle immagini televisive, mostrandoci tutte le problematiche sociali degli Stati Uniti. Luci e ombre, quindi. Esattamente, sì, aspetti positivi, quali ad esempio sono il patriottismo, che è il protagonista della prima sezione, per cui l'amore che gli americani hanno per la propria nazione, per la propria bandiera, ma anche ombre, quindi conflitti culturali o le problematiche a sfondo razziale che attraversano il paese. We saw a picture of a girl with the same hair and I posed next to her, cop and a smile. Made a great photo, but I never thought I'd see her again. Didn't really wanna ever see her again. When alone on the train, it was hard to imagine you counter back on your own. You brought it back for me. That day was supposed to be like spring break, but it was dark and cool, and the sand felt all dirty and gritty under our shoes. I brought my camera and have a shot of us, you and that guy who died down in Philly on the beach. The cyclone made you sick. It was a similar sort of trip. By the time we took the tram down to Roosevelt Island, you made me feel like I was more like you than like me. I like that. We even went uptown to score, sat on a bench on that designated corner when we didn't have cell phones, and waited for a man, then jumped on the subway back downtown. And then you step outside. You step outside. una colonna sonora che inizierà e finirà con Bruce Springsteen dal disco Nebraska. Intanto alcune voci, secondo me, molto rappresentative nel contemporaneo, come Eleanor Friedberger dei Fire Furnaces. Il disco poi è molto di stagione, il titolo è Last Summer. Meet at the bar with the floor lights up and every other square turns to red and green. Just to make us go and stop and stop and go. I go sleep on the train, we'll wake up next to that guy we used to hate. But the sound of his voice and the sound of his giggle makes me wanna be his friend again. And it goes, and it goes. And it goes, and it goes. Ecco, quando pensiamo a delle attinenze americane, da Hopper, che a sua volta è stato a Parigi per avere un'ispirazione, per avere un motivo di studio, grandissimo artista lui è per quanto riguarda la bellezza oggettiva e la bellezza soggettiva, riuscire a dare un'interpretazione, lui per me uno veramente molto importante nella storia dell'arte. Sto parlando di Hopper, che non credo sia in esposizione perché, come ho detto, è relativo a quella parte di ponte, chiamiamolo, qua siamo già oltre, ovviamente più vicini ai giorni nostri. O anche Grant Wood, American Gothic, non so se avete mai visto, ma sicuramente l'immagine dei due contadini è ormai un'icona per quanto riguarda il mondo dell'arte di tramite americana. Ecco, siamo oltre, come per quanto riguarda sempre il periodo storico, eh? A breve, per capirlo meglio, entreremo in mostra con i percorsi, le sezioni. Si parlava anche di patriottismo e di contraddizioni. Certo, patriottismo non è un termine che nel cuore mi sta, però analizzando nell'arte quello che negli Stati Uniti d'America poi è stato portato anche come critica, ricordiamo un grandissimo Keith Haring per quello che è la critica negli Stati Uniti d'America, lo stesso Banksy, e appunto è il momento di entrare in mostra al Centro Culturale Altinate di San Gaetano a Padova. Lo facciamo con la voce di Daniel Buso, il curatore. Ma entriamo in mostra, immagino sia una mostra di respiro eterogeneo come opere in esposizione. Assolutamente sì, la protagonista è sicuramente la fotografia, appunto da Robert Capa a Richard Bresson a Vivian Maier, ci sono molti esponenti sia della street photography che della fotografia documentarista, ad esempio Dorothea Lange, ma è una mostra che accoglie anche altri media, dai più classici come l'olio su tela o l'acrilico, fino ai media più recenti, quindi la video arte è ben presente, le installazioni e quindi anche la fotografia a colori sono rappresentati, ad esempio vi sono opere di Steve McCurry e altri fotografi recenti internazionali. L'esposizione è divisa in sezioni? Assolutamente, ci sono 5 sezioni, appunto si inizia dal patriottismo e si attraversa poi un percorso che tratta sul potere americano, quindi la sfera politica legata ai presidenti americani, quindi ci sono i ritratti di Kennedy, di Nixon, fino al ritratto di Donald Trump realizzato da Pettibone. Poi c'è la sezione appunto sui conflitti culturali, quindi quella sull'imperialismo americano, inteso in termini più strettamente militari, e poi si conclude con una sezione più spensierata che è intitolata Una vita a stelle e strisce, molto curiosa, ironica, perché mostrano i visitatori come gli americani giocano con la loro bandiera utilizzandola ad esempio come vestito in molte situazioni sociali. This is me that you're talking to, and anything I say shadow inside me is begging for directions to Illicit City, oh, Illicit City. And I wanna do better than survive this life, cause it is a dream. I wonder if the wild animals living in me, will they ever find freedom? Più bello di Joan Vassar, in arte Joan as the Police Woman, The Deep Field, il brano è Magic. Tanto ha fatto la pallacanestro e lo sport per conoscere la cultura americana. Ammetto, più affascinato dalla cultura afroamericana, però inevitabile anche la conoscenza della cultura americana praticando questo sport. Oppure, mi correggo, statunitense, attenzione, ben diverso. Pensando in generale un po' a quelle che sono state le fasi importanti, perché no, anche nella comunicazione e nell'intrattenimento, ascoltando e dando una visione a tutto ciò, sarebbe bello portare una mostra, un'esposizione da Happy Days fino a Cheers, fino a Cin Cin, passando per tutte quelle sitcom. Io non riesco a chiamarle serie perché per me è una bestemmia, quindi io preferisco sempre il termine sitcom o telefilm, ecco, come Alice, chi ricorda La cameriera di Phoenix, Arizona, insieme al piccolo Tommy, grande appassionato anche lui di pallacanestro, che per farsi accettare inizia a tenere per i Phoenix Suns. Loro arrivano dal New Jersey. Questo è veramente un passaggio attraverso gli Stati Uniti d'America in una situazione di intrattenimento che sembra così immediata, ma che dà uno spettro per noi europei, che porta diverse riflessioni pur con una raffinatissima leggerezza. E poi il capolavoro delle sitcom, che per me è Cheers. In Italia ovviamente ha avuto un giusto successo, per i palati diciamo così più attenti è stato tradotto con Cin Cin. Sì, questa è una mia mia immagine, chissà, fare una mostra magari attraverso anche queste visioni. E non dimentichiamo anche la redattrice super moderna, emancipata nella sua dolcissima ironia, Mary Taylor Moore. Anche quella una sitcom di una bellezza. Disco questo, eh? Questo è veramente The Deep Field di Jonas the Police Woman. Lei è stata assieme a Jeff Buckley per parecchio tempo, veramente una coppia non indifferente. Sono le 8:28 minuti, riprenderemo la nostra conversazione corredata dalle mie divagazioni. Sapete che sono il dottor divago, per quanto riguarda andare fuori tema sono bravissimo, ma resteremo a tema con American Beauty al Centro Culturale Altinate subito dopo la pubblicità, la seconda parte di conversazione che oltre a portarci in mostra ci parlerà di percorsi storici e di relazioni con il passaggio dall'Europa agli Stati Uniti d'America. A tra poco. God away. put God away, I put God away. I put God away, metto via le armi. Sarebbe ora, eh. This is the end of faith. Allora, musica americana per me è musica così frettolosamente definita, vi è proprio definita americana, ma diciamo che è un termine tagliato un po' con l'accetta. Per quanto riguarda questa voce ex degli Smog, per me lui numero uno, Bill Callahan. To find my peace in the land. Sometimes I wish we were an eagle. A volte vorrei che fossimo un'aquila. Bello tutto sto disco, bello tutto. It's time to put God away. È giunto il momento di buttare via le armi alle 8:37 minuti, ma senza. Certo, e questa, seppur in poesia, richiesta forte di Bill Callahan, alla quale mi unisco, è una colonna sonora dedicata a American Beauty. Abbiamo parlato con il curatore Daniel Buso di percorsi storici, qualche divagazione, dopodiché siamo arrivati anche a entrare in mostra con le suddivisione tra le sezioni. Ora procediamo alla nostra conversazione con il curatore della mostra, parlando invece di aspetti meramente artistici. Dopo questo distacco con l'Europa, come possiamo definire questo sviluppo, questa crescita che c'è stata, se vogliamo farne un parallelismo appunto artistico, in quale, non dico recinto, ma come possiamo definire queste espressioni artistiche? Sì, beh, queste espressioni artistiche, soprattutto alcune correnti, sono sicuramente sintomo di una prospettiva internazionale che gli Stati Uniti hanno acquisito dalla seconda metà del Novecento. Prima erano una sorta di, diciamo, seconda versione dell'Europa, quindi grandi movimenti come il surrealismo sbarcano negli Stati Uniti, ma sono di fatto una seconda generazione rispetto alle idee europee. Dal secondo dopoguerra le cose cambiano, soprattutto grazie alla pop art. Gli Stati Uniti colonizzano il mondo anche da un punto di vista artistico, quindi la pop art, ma anche la street art con Keith Haring, fino appunto agli artisti più recenti come Shepard Fairey, segnano proprio gli americani che riescono a creare anche in ambito artistico qualcosa di assolutamente nuovo. Quanto ha influenzato la nostra vita, non solo nell'arte, tutto ciò? Beh, sicuramente gli Stati Uniti sono un faro per noi europei, in genere per una buona parte del mondo. La cultura americana è stata esportata appunto dal secondo dopoguerra, quindi tutti noi abbiamo ben in mente le tappe, così, non solo appunto dell'attualità politica, ma anche della cultura americana, che è poi la cultura pop che ha informato il mondo. Per cui è una mostra in cui sicuramente apprezzare l'influenza che gli Stati Uniti hanno avuto su di noi, ma anche in un certo senso poter avere un approccio critico a questa influenza. Quante opere troviamo in mostra? Nel complesso sono 130 opere. Provenienza? Le provenienze, allora, c'è un fondo che si chiama Create, che ha fornito la maggior parte delle opere, e poi ci sono altri prestiti internazionali, principalmente gallerie d'arte che trattano i singoli artisti. Trattandosi di artisti contemporanei, abbiamo cercato di collegarci direttamente a loro per avere un prestito diretto. Giusto citare anche la base durante queste conversazioni, che è un grandissimo chitarrista, sarà anche al Bologna Jazz Festival imminente, e poi parleremo di musica sul finire. Lui è Bill Frisell, che ha dato un linguaggio modern jazz, se vogliamo, dopo diversi approcci con lo studio in jazz ultra che moderno. Abbiamo questa visione che ha preso per alcuni lavori della Nolan Satch, dove l'identità, ecco, chiamiamola la parte Stati Uniti d'America, nelle sensazioni che comunica, è ben presente. Lui è un grandissimo chitarrista, eh? considerando quello che si trova oggettivamente, si può parlare veramente di una cesura con quello che è stato appunto il periodo di ispirazione, come è stato definito, dall'Europa, e poi tutto è cambiato. È rimasto qualcosa del periodo precedente oppure è una netta dicotomia? No, sicuramente ci sono delle persistenze anche nel periodo successivo. Noi abbiamo voluto sottolineare un po' questa cesura. Nella fotografia, ad esempio, sì, il linguaggio della street photography che nasce appunto a Parigi, poi di fatto sbarca negli Stati Uniti e resta pressoché inalterato, ma nelle arti visive in senso più stretto, ad esempio appunto nella pittura pop, nell'arte pop, sicuramente lo stacco è radicale, perché sono proprio le iconografie e i soggetti a cambiare. Ad esempio Jasper Johns fa la famosissima flag, la bandiera americana dipinta, e questo è uno spartiacque, cioè un soggetto che è astratto ma che è anche un simbolo di una nazione che diventa il protagonista di un'opera d'arte. E se dovesse portar via con sé un'opera, quale prenderebbe? Beh, ne prenderei molte di sicuro. Una, dovendo sceglierne una, sicuramente la più magnetica è il ritratto del patriota realizzato da Diane Arbus, questa fotografa incredibile che crea sempre immagini estremamente tragiche, profonde, e appunto il suo soggetto, che è un ragazzo con dei disagi mentali, che però ha la spilletta I am proud to be American e tiene in mano la bandiera, e quindi crea questo, insomma, quasi un controsenso tra le difficoltà legate al welfare sociale, che per certi versi non esiste in America, però l'esibizione di un patriottismo che è sempre sentito. Una colonna sonora potrebbe essere quella di Bruce Springsteen? Assolutamente, infatti c'è anche l'immagine iconica di Annie Leibovitz, che realizzò la copertina di un album straordinario di Bruce Springsteen, quindi sicuramente lui c'è come immagine, ma ce lo immaginiamo anche a livello musicale. E fino al 21 gennaio sarà a Padova, a San Gaetano per la precisione. Noi ringraziamo tanto Daniel Buso, curatore della mostra, e perché no, ci diamo appuntamento a un altro incontro qui su Radio Città Fujiko. Grazie Daniel e buona giornata. Grazie a lei per avermi chiamato. Blown out, she's roaming like a turbo jet. Dropped her up in the backyard on concrete blocks for a new clutch. Played a new set of shocks, took her down to the car wash, checked the plugs and points. Well, I'm going after tonight, I'm gonna rock it, join Hurley, North Jersey, industrial skyline. I'm a whole set, cobra jet creeping through the nighttime. Gotta find a gas station, gotta find a payphone, just turn back, sure it's spooky at night. Open All Night, dal disco secondo me più bello di Bruce Springsteen, seppur molto minimale, è Nebraska, è veramente denso di immagine, un disco secondo me iconico, un disco che trasmette, consigliatissimo, Bruce Springsteen, Nebraska. Porta a conclusione questa presentazione al Centro Culturale Altinate, San Gaetano, Padova, fino al 21 gennaio, American Beauty. Luci e ombre, direi, dagli Stati Uniti d'America, contraddizioni, Prima di congedarmi ricordo l'appuntamento di questa sera al Fondo Comini, via del Battiferro, quindi una serata con DJ set e concerto, il tempo facendo gli scongiuri pare sia dalla nostra parte, quindi vi aspetto per una playlist di acid jazz, soul e rare groove, 45 giri e 33 giri. Parte il Jazz Club Ferrara, parte intendo come conferenza stampa di presentazione 2023-2024, sarà protagonista venerdì poi con la prima puntata di stagione di Jazz Live. Domani andiamo in scena, si alza al sipario sui 103.1, protagonista ITC Teatro, Compagnia Teatro dell'Argine. E vi aspetto puntuali alle ore 7 per la prima colazione in diretta con Radio Città Fujiko. Ringraziandovi per l'attenzione, super mattiniere e super mattinieri dei 103.1, il Breakfast Club, con un caro saluto e un abbraccio dalla voce di William Piana, vi auguro una buona giornata e vi dà appuntamento a domani. Ciao a tutti, ciao a tutti.